Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. In quel pomeriggio del 1986 sto attendendo il treno che mi riporta in caserma, in Coppa o Friuli. Lei invece è insieme ad una signora che potrebbe essere la nonna. Il fato ha già organizzato tutto. Viaggeremo insieme sullo stesso treno. Per quanto mi riguarda, bisognerebbe rivedere profondamente il concetto di amore platonico. In maniera particolare, se quell'amore dura da quasi 4 anni. Daniela. Io avevo 24 anni, lui più grande di me. Avevamo in comune la razza del cane, un bobtail. Mi ha insegnato cosa significa lottare per quello in cui si crede e ad avere la pazienza per vederlo realizzato. Un giorno si è trasferito, i miei non volevano che lo frequentassi e non l'ho più rivisto, ma ricorderò sempre il suo volto e la sua voce profonda. Barbara. Se devo essere sincero, ho vissuto più di un amore platonico quando ero giovanissimo. Fra questi ce n'era uno in particolare, si chiamava Andrea e frequentava già l'università mentre io andavo ancora a scuola. È durato qualche anno, poi, finalmente, ho pensato ad altro. Liliana. Noi abbiamo fatto di tutto, sono passate oltre 48 ore. Quando sono 76, giusto? 72! Sono passate 72 ore dal giorno in cui, venerdì scorso, abbiamo chiesto all'ascoltatore che ci ha mandato la storia, che va in onda oggi, di farsi vivo, di mandarci un'email, di farci una telefonata. Niente, non si è fatto vivo. Però questa storia era molto bella, parlava di una cosa che è capitata più o meno a tutti, non magari nel modo in cui è successa a lui, ma è una storia che ha a che fare con quegli amori che rimangono in uno spazio di tempo e in uno spazio anche molto molto stretto, molto circoscritto nella nostra vita, e che quindi sembrano splendidi perché vengono proiettati all'infinito nella nostra mente. E spesso e volentieri sono amori platonici, in cui cioè non accade sostanzialmente nulla. E la storia di oggi è la storia di, lo chiameremo Ranciero, anche se non ha senso questo nome, però diciamo aveva a che fare con la sua email. Ranciero, che fine hai fatto? Ci mandi una storia, tra l'altro mesi fa, noi ti diciamo, Margherita, la povera Margherita Hina, ti sta dietro per mesi e tu non rispondi. Quindi oggi è una puntata particolare perché, come avete sentito già dall'intro, non ci sarà la voce dell'autore presente, non ci sarà la telefonata con lui, ma ci saranno come al solito i vostri messaggi. Mazza, sembrava un conduttore radiofonico. Ma ci saranno come sempre i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sul profilo Facebook, se ce l'avete, che è Voi Siete Qui Radio 24, o anche via email a voisietequi@radio24.it. Ecco, a questo proposito volevo rispondere a tutti quelli, rispondiamo anche singolarmente, però a tutti quelli che scrivono: ma siamo ancora in tempo per mandare messaggi, per mandare racconti? E la risposta è ovviamente sì. L'indirizzo è voisietequi@radio24.it. Basta che voi mandiate una storia piccola che vi sia capitata nella vostra vita, che duri più o meno una pagina. Guardate, accettiamo anche una pagina e mezza, due, se riusciamo a tagliare qualcosa. Inviate già anche una foto, non perché le facciamo la selezione tramite le foto, ma perché poi le pubblichiamo sul profilo, sul sito di Radio 24 e sul nostro profilo Facebook, una parte, insomma. Ecco, visto che non sappiamo né il nome né la faccia né conosciamo la voce dell'ascoltatore di oggi, non ci sarà nulla di tutto questo sul profilo Facebook, se non un pezzo di storia, e non ci sarà la foto sul sito della radio, e mi immagino nemmeno la mappa, giusto Tiziano? Perché non sappiamo di dov'è, non sappiamo nulla di lui, sappiamo semplicemente che ci ha mandato una storia che parla di un amore in tre. Una storia, tra l'altro, che è uguale, proprio tagliata su un pezzo di Calvino, su un racconto di Calvino che si chiama Avventura di un soldato, di cui vi leggerò un pezzettino dopo. E poi facciamo i ringraziamenti del caso, perché è successa una cosa, sinceramente quando Tiziano me l'ha detto dicevo boh, magari è difficile, e invece è successa una cosa che lui chiama redazione diffusa, giusto? Per cui abbiamo chiesto, non riusciamo a trovare un pezzo di Calvino, boom, pronti via, c'erano tre che non solo ce lo mandavano, ma uno ci faceva pure, saper cercare sulla rete. 349-238-6666, vi sarà successo una volta che in un viaggio in autobus magari, o in treno, o sulla nave, come è successo a Gigi, che ci ha mandato una storia di cui vi leggerò un estratto più tardi. O magari invece no, un amore platonico che è durato un anno, due anni, sul posto di lavoro, o perché avevate un cane in comune, come è successo per esattamente per Barbara. Un amore che non si è mai realmente consumato, che è rimasto platonico. E tra l'altro ho fatto una ricerca al proposito. Questa definizione chiaramente ha a che fare con Platone, anche se quello che illustra meglio il concetto di amore platonico è Giordano Bruno, però il concetto viene fuori, aspetta che te lo dico, è stato coniato nel XV secolo da Marsilio Ficino. E questa locuzione prende il nome dalla teorizzazione dell'amore che Platone fa nel Simposio, in cui parla di Socrate, e Socrate appunto dice che l'eros... non che è dannoso, no, sì, eccolo qua, l'eros è una sorta di demone, e quindi la teorizzazione come dire, trascendere il corpo, e quindi questa forma di amore platonico è una forma di amore preferibile, questo secondo il racconto di Platone che mette in bocca a Socrate. Però insomma avete capito di cosa si tratta, no? Di quelle storie che non si, detto male, non si concretizzano. In realtà la storia che ci ha mandato il nostro Ranciero, nome in codice Ranciero, in parte si concretizza, però rimane, quello che importa è che gli rimane in testa, e questa cosa si moltiplica nel tempo e probabilmente nel suo cuore anche, diventando sempre più grande, ricordandogli un profumo di gelsomino. Appena l'avevo scorta in quella sala d'attesa di una cittadina dell'entroterra Siculo, avevo sentito una forte attrazione. L'attrazione che si prova per gli sconosciuti con cui si condivide un pezzo piccolissimo della propria vita. Un viaggio in tram, l'attesa di un autobus o la sala d'aspetto di una stazione. In quel pomeriggio dell'86 sto attendendo il treno che mi riporta in caserma e in Coppa o Friuli. Lei, invece, è insieme ad una signora che potrebbe essere la nonna. Il fato ha già organizzato tutto. Viaggeremo insieme sullo stesso treno, nella stessa carrozza, stesso scompartimento, fianco a fianco con lei. Tipica bellezza mediterranea, appena diciottenne, piccolina, mora, riccia e formosa. All'inizio è difficile attirare la sua attenzione, ci vuole qualche ora prima di iniziare a scambiare qualche battuta. Io ho un carattere chiuso, non sono uno capace di rompere facilmente il ghiaccio. Sono sempre stato quello che veniva tirato in mezzo e non che conduceva il gioco. Dopo qualche timido incrocio di sguardi e scambio di battute, iniziamo ad entrare in sintonia. Scopro che faremo buona parte del viaggio insieme. Lei sta andando a trovare il fratello grande che vive in Svizzera interna per conoscere la neonata nipotina. E il viaggio inizia. Qualche imbarazzante contatto tra noi, affacciati al finestrino, intenti ad ammirare i paesaggi che scorrono veloci e i colori di quell'inizio primavera esplosa all'improvviso. Inizia a imbrunire e forse anche grazie a questo gioco di luci e ombre, quei contatti prima imbarazzati e casuali diventano piacevoli e condivisi. Iniziamo a parlarci e a farci piccole confidenze di cui sorridiamo in maniera quasi solidale. Arriviamo al tratto di viaggio più affascinante ed emozionante. La traversata di quel tratto di mare tra la Sicilia e la Calabria. E non so cosa accada, ma è come se Scilla e Cariddi accendessero la scintilla liberatoria di ogni iniziale imbarazzo. Sembriamo due giovani innamorati, tra abbracci e baci sempre più intimi. Un vero colpo di fulmine che dura giusto il viaggio in treno fino a Bologna. Un bivio che separerà per sempre le nostre strade. Ci sarà ancora il tempo per qualche lettera e poi un dolce e piacevole ricordo di questa bellissima ragazza che suonava il clarinetto nella banda del paese, di cui vagamente ricordo il volto, ma di cui ho ancora vivo nel naso il profumo di gelsomino. Sì. La notte poi si illumina, si spengono i cartelli luminosi e piove luce intorno a noi. Riflettono le barche dentro casa tua, riemergono dal cuore dei palazzi le signore. capitato a tutti un incontro simile a questo. Più o meno. Incontri in cui nell'arco di un viaggio o di un'attesa comune si ha la sensazione di aver incontrato un'anima affine, una persona con cui sogni di condividere molto di più del tempo in quello scompartimento o in quella stazione. E a ognuno di noi rimane poi il ricordo splendido di quella storia che non è stata una storia, ma che se lo fosse diventata, chissà. O invece magari no, meglio così. Ho letto una storia anni fa, era la storia di una coppia, se si può definire così in realtà. Era la storia di un uomo e una donna, conosciutisi su un treno, che hanno però continuato a frequentarsi solo ed esclusivamente in treno. La storia è molto semplice, siamo in Svezia, lui è un pubblicitario e lei è una produttrice televisiva. Vivono in due città diverse, lui a Gävle e lei a Uppsala. Tutti i giorni vanno in treno a Stoccolma. Lui ci impiega 2 ore e dopo 1 ora sale lei. All'inizio lei non lo guarda minimamente. Lui, quando lei sale, si alza, la cerca e se c'è posto le si siede accanto. Ci vogliono un paio di mesi e finalmente un giorno lui si accorge di un dettaglio non da poco. Per la seconda volta consecutiva lei sta leggendo lo stesso libro che lui aveva letto qualche settimana prima sul treno. Non può essere una coincidenza. Il giorno dopo lui alza gli occhi dal libro che sta leggendo e nota che lei sbircia la copertina per scoprirne il titolo. Lui allora lo chiude e un attimo prima di scendere lo allunga verso di lei dicendo: «Tieni, poi me lo restituisci». Iniziano così. Iniziano a parlare di libri e poi di film tutte le mattine sul treno delle 7. Poi scendono, prendono metropolitane diverse e iniziano le loro giornate. Lui la sera inizia a prolungare il suo orario di lavoro e aspetta 40 minuti per prendere lo stesso treno di ritorno che prende lei. Non si scambiano numeri di cellulare, niente mail, niente Facebook. Passano i mesi e quelle ore in treno si trasformano da un tempo di trasferimento ad un tempo tutto per loro, in cui Ingham e Martina, si chiamano così i protagonisti della storia, si conoscono, si raccontano e iniziano a non poter più fare a meno l'uno dell'altro. Ma quando tutto sembra avere la tipica risoluzione di ciascuna storia che sta per nascere, ecco il colpo di scena. Martina prende l'iniziativa, è un venerdì sera, scendendo dal treno lo saluta e gli chiede cosa farà nel fine settimana. Lui le dice che non lo sa e lei allora lo invita ad una cena che farà a casa sua con un po' di amici, ma Ingham declina l'invito dicendo: «Credo che sia meglio di no». Martina ci rimane molto male e subito pensa che lui sia fidanzato o che lei non gli interessi davvero. Per qualche mattina poi lei prende un altro treno, finché una sera al ritorno si incontrano e lui chiarisce quello che pensa. Lui pensa che non vuole farla diventare una storia perché non è sicuro che funzionerà. Dice che su quei binari, in quel luogo fuori dal tempo che è il treno, quel luogo che corre tra una città e un'altra, tutto sembra facile, ma teme che fuori da lì non sia la stessa cosa. Inizialmente a lei sembra una spiegazione molto stupida. Poi però inizia a pensare che in fondo è vero, che da quando lo conosce la sua vita fuori dal treno è migliore, che quelle 2 ore al giorno sembrano una benedizione anche sulle altre 22. Ed ecco che Ingham e Martina iniziano una relazione che esiste solo su un treno, solo nei giorni di lavoro, la mattina e la sera. Non lo raccontano a nessuno perché sanno che in pochi lo capirebbero, visto che in fondo non se lo spiegano nemmeno loro. E ogni giorno si chiedono se quella cosa lì la possono chiamare amore. Ecco, è venuta fuori 2 anni fa questa storia, la storia di Ingham e Martina, e quando io l'ho letta stavano ancora insieme. Ora non so più, ma forse non è così importante. This is wrong. This is wrong. This is from Matilda. Questo pezzo si chiama Matilda, è un pezzo di un gruppo inglese, di Leeds mi pare, che si chiamano Alt J, è un gruppo che ha appena vinto un premio che si chiama Mercury Prize, che è una sorta di Oscar della musica indipendente, ma mica tanto indipendente, è un Oscar, insomma, è abbastanza che se vinci quello sei abbastanza figo. Loro sono giovanissimi, questo pezzo si chiama Matilda e visto che qualcuno anche su Twitter ci chiede come si chiama l'altro pezzo, l'altro che avete sentito si intitola Illumina e l'autore è Colapesce, che è un cantautore siciliano che abbiamo già messo diverse volte, no Tiziano? 349-238-6666, vi ricordo comunque che i brani che mandiamo in onda li trovate sul profilo di Voi Siete Qui, perdonatemi, sulla pagina di Voi Siete Qui sul sito di Radio 24, abbastanza facile, radio24.it, cercate Voi Siete Qui, lì trovate anche i podcast nel caso in cui chissà per quale motivo vi fosse sfuggita una puntata di questo programma, magari perché non avevate voglia di ascoltarla quel giorno, invece il giorno dopo sì, non capisco come mai, ma se vi capita andate sui podcast oppure iscrivetevi, abbonatevi gratuitamente su iTunes ai podcast di Voi Siete Qui. Mi scrive sul profilo Twitter, l'hashtag è Voi Siete Qui R24, l'hashtag, perdonatemi, il profilo è @VoiSieteQuiR24. Maurizio scrive: l'ho avuto anche io durante un rientro dal militare dal Friuli, non ne ho la più pallida idea di chi sia, puntini puntini, limonato duro, due punti esclamativi. Proprio per farci stare i punti esclamativi nei 140 caratteri ha fatto uno sforzo incredibile Maurizio. 349-238-6666, uno mi scrive invece via sms, a me capita quasi tutti i giorni una storia del genere. È capitata invece una volta in particolare a Luigi, che mi ha mandato questa storia stamattina via mail, Voi Siete Qui, @radio24. E la storia inizia così. Era il pomeriggio del 6 agosto del 78, fermi sulla mia auto al piazzale del porto di Oek van Holland, in attesa del traghetto che ci portasse ad Harwich, in Inghilterra. I miei tre amici ed io stavamo ascoltando per radio le notizie dall'Italia che era appena morto Papa Paolo IV. Paolo VI, probabilmente. Paolo VI è scritto. È scritto con la barretta dietro invece che davanti. Insomma, salgono su questo traghetto, gli altri tre amici vanno a dormire. Mentre lui invece no ed esce sul ponte. Ascoltatevi il brano e poi torniamo dopo la borsa. Da solo esco sul ponte a respirare a pieni polmoni il vento del mare del nord. Dietro le luci della costa olandese, davanti il buio più profondo. Mi appoggio al parapetto e guardo giù il mare e la sua schiuma. Dietro di me si apre la porta di una cabina ed ecco comparire la tedesca silenziosa nella sua splendida camicetta bianca anni 70, quella che avevo visto prima. Mi vede e abbassa gli occhi, d'altronde non ci eravamo nemmeno presentati. Mi faccio avanti, la saluto e ci presentiamo. Hi, I am Gigi. Hi Gigi, I am Ina. La traversata non ricordo quanto durasse, se 6 o 8 ore, ma l'alba ci trovò sdraiati e abbracciati tra le gomene della nave, nell'angolo più riparato. Volevamo vederla insieme, e su quella nave, e quella notte. In prossimità della costa inglese, poco prima dello sbarco, a un certo punto si avvicinano due marinai con due enormi tazze di caffè bollente e ce le porsero, come se le avessimo ordinate. Furono così gentili. Forse facevamo loro pena o tenerezza, non lo so. Ci hanno visto tutta la notte girare sui ponti e ci hanno ritrovati lì, sulle gomene, infreddoliti. Un gesto che è difficile dimenticare. Così come è difficile dimenticare lei, Ina, o come cavolo si scrive, non lo so. All'epoca non c'erano internet, mail, telefoni cellulari. La saluto, lei torna in cabina per prepararsi a scendere. La nave sta per attraccare, la gente si sveglia e io non sapevo dove fossero finiti gli altri tre. La nave torna a vivere, a prepararsi per l'attracco. E io li ritrovo, al bar, belli riposati. Avevano dormito per terra nei saloni, quelli con la moquette. La nave attracca e inizia lo sbarco. Chi in possesso di auto deve fare un percorso carrabile per arrivare alla frontiera del porto, quella a piedi un altro percorso. Mentre scendo con la macchina le curve del porto, cerco come un pazzo di vederla tra le persone a piedi, ma niente, non la riconosco, non la vedo. Passiamo i controlli doganali inglesi e appena fuori accosto in mezzo al casino di guida a sinistra, a destra, problemi con gli incroci, ma trovo la forza di fermarmi sperando di vederla ancora. Niente. Mai più vista. Ina, chissà se qualche volta in questi decenni hai ripensato a quella notte. Io sì, spesso. Profumo, sostantivo maschile. Esalazione gradevole, da sostanze naturali o preparate artificialmente. Figurativo, la manifestazione esteriore di una felice condizione spirituale o più genericamente di qualsiasi cosa possa suscitare interesse, ammirazione o desiderio. Il profumo dei soldi, del successo. Miscela di essenze odorose, naturali o artificiali, opportunamente dosate. Etimo, latino volgare, perfumus, derivato di perfumare, derivato di fumus, fumo. Data seconda metà secolo XV. Mentre Anna Migliorati scalpita per entrare tra poco meno di 10 minuti per lo speciale, vi ricordiamo, speciale premio Nobel per la pace all'Europa, giusto Anna? Premio Nobel per la pace all'Europa. E raccontiamo di ogni, ne raccontiamo tutto, tutto, in 15 minuti. In 15 minuti, Anna Migliorati alle 16.45, io vi avevo promesso che vi avrei letto un pezzo di un racconto di Calvino che si chiama Avventura di un soldato. È la storia di questo soldato che Calvino presenta come il Fante Tomagra. In sostanza inizia così il racconto. Nello compartimento accanto al Fante Tomagra venne a sedersi una signora alta e formosa. È esattamente la stessa storia che ci ha mandato Ranciero. Niente, non conosciamo il nome dell'ascoltatore di oggi. È esattamente la stessa, però immaginate che in 4 pagine di racconto questo lentamente si avvicini a questa signora. Ma sapete, quelle robe di sfioramenti, però lui è imbarazzatissimo, ha paura che non sia vero, che sia lui a fraintendere. Poi però la gente comincia a alzarsi, ad andarsene, e lui rimane da solo con lei. Il treno si svuotava. Dei passeggeri dello scompartimento i più erano scesi. Ecco, anche gli ultimi calavano le valigie e s'avviavano. Finì che rimasero soli nello scompartimento il soldato e la vedova, vicinissimi e discosti. A braccia conserte, muti, gli sguardi nel vuoto. Tomagra ebbe ancora bisogno di pensare: adesso che tutti i posti sono liberi, se volesse star tranquilla e comoda, se avesse noia di me, si sposterebbe. Qualcosa lo tratteneva e impauriva ancora. Forse nel corridoio la presenza di un gruppo di fumatori o una luce che s'era accesa perché veniva sera. Allora pensò di tirare le tendine verso il corridoio. Come fa chi vuole dormire? S'alzò con passi elefanteschi, cominciò con lenta cura meticolosa a sciogliere le tendine, a tirarle e a riallacciarle. Quando si voltò, la trovò sdraiata, come volesse dormire, ma oltre ad avere gli occhi aperti e fissi, era calata giù tenendo intatta la sua matronale compostezza, con il maestoso cappello sempre calcato sulla testa, appoggiata al bracciolo. Tomagra era in piedi, sopra di lei. Volle ancora, per proteggere questo suo simulacro di sonno, far buio anche al finestrino, e si protese sopra di lei per slacciare la tendina. Ma non era che un modo di muovere i suoi goffi gesti sopra la vedova impassibile. Allora smise di tormentare quell'asola di tendina e capì che doveva fare altro: dimostrarle tutta la propria improrogabile condizione di desiderio, non fosse che per spiegarle l'equivoco in cui lei era certo caduta, come a dirle: vede, lei è stata condiscendente con me perché lei crede in un nostro remoto bisogno d'affetto di noi soli e poveri soldati, ma ecco invece io quello che sono, ecco come ho ricevuto la sua cortesia, ecco a che punto di impossibile ambizione sono, lei vede, qui arrivato. E poiché ormai era chiaro che nulla riusciva a meravigliare la vedova, anzi ogni cosa pareva in qualche modo da lei prevista, allora al Fante Tomagra non restava che far sì che non ci fossero più dubbi possibili e che finalmente lo spasimo della sua follia riuscisse a cogliere anche chi ne era muto oggetto. Lei. Quando Tomagra s'alzò e sotto di lui la vedova restava con lo sguardo chiaro e severo, aveva gli occhi azzurri, col cappello guarnito di veli sempre calcato in capo, e il treno non smetteva quel suo altissimo fischio per le campagne. E fuori continuavano quei filari di vigne interminabili, e la pioggia, che per tutto il viaggio aveva rigato instancabile i vetri, riprendeva con nuova violenza, egli ebbe ancora un moto di paura d'avere lui, Fante Tomagra, osato tanto. Io mi tappo la bocca e ingoio parole che nascono come fiori dal petto, paura che Dio ci scopra prima o poi e ci porti via tutto. Non grido perché sono scaramantico o perché ho visto guerre per un bacio, ma dentro me divampo tutto e solo danzo il ballo degli amanti nuovi. 349-238-6666, si parla di quegli amori che durano il tempo di un viaggio, di un'attesa, e che per comodità chiamiamo platonici, anche se poi ci scrivono che non è esattamente, sicuramente non è il caso né della storia di oggi e tantomeno di Avventura di un soldato, perché non rimangono solamente platonici, basta pare, basta una carezza perché non lo sia più. Però ad esempio Giulia sul profilo Twitter ci scrive: voi siete qui R24, io ho incontrato il mio ex compagno su un treno, è durata quasi 7 anni. Non male per essere degli sconosciuti, ma Giulia, non vale, a meno che non sia come nella storia che vi abbiamo raccontato di Ingham e Martina, non sia durata proprio lo spazio del treno. 349-238-6666, c'è qualcuno che addirittura si ricorda il nome di quella ragazza, ed è Alex da Imperia che scrive: Rita Anninen, possiamo dirlo nome e cognome, è svedese, no, credo sia Stoccolma, per cui poi magari non è che uno che sta a Stoccolma sia per forza svedese, magari ci andava per qualche motivo, però va bene, se siamo a rischio denuncia da Rita Anninen, tant'è, ce la prenderemo. Un amore di una notte, 1985, Stoccolma, nave Silja Line, si ricorda tutto Alex. Mai più saputo nulla di lei. Splendida. È anche vero che però l'85 sono 27 anni fa. Sono 27 anni fa. Quindi, diciamo, nella memoria di ognuno di noi 27 anni sono tanti, quindi qualcosa probabilmente viene anche ingrandito o rimpicciolito, non credo, in questi casi solo ingrandito. La storia di oggi noi non sappiamo di chi è, avevamo solo un indirizzo email, quindi io non ve l'annuncio di chi è la storia di oggi. Sappiamo però sicuramente di chi è la storia di domani, e tra poco lo sapremo, ma tra poco Anna Migliorati. Sono Marco, vivo a Torino e la storia di domani è la mia e vi racconta l'odissea che ho vissuto per cercare di vedere l'agognata finale di Champions dell'Inter nel 2010. Questa è la mia storia e io sono qui.